e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa, in diretta dagli studi di Milano di Radio 24, il nostro viaggio settimanale alla scoperta di altre Europe. Cerchiamo notizie, curiosità, altri punti di vista e non solo, cerchiamo anche temi comuni che poi andiamo a trattare insieme a tutte le altre radio che fanno parte di questo network di Euronet. Le coordinate, l'SMS, se volete farvi vivi in diretta, 349-238-6666, la mail che è l'altraeuropa@radio24.it, euronet.eu invece se volete appunto dare un'occhiata a questo network e vedere settimanalmente come trattiamo le notizie, come cerchiamo questa condivisione insieme a 18 altre radio che appartengono a questa rete. Partiamo da una notizia che abbiamo letto sul Corriere della Sera qualche giorno fa. Il titolo: a nuoto nella Manica, la Francia si è stancata. Sì, perché c'è questa strana diatriba. Ogni anno centinaia di persone cercano di attraversare a nuoto il canale della Manica. La Francia ha vietato la cosa, non ci si può tuffare dalle coste francesi per raggiungere quelle inglesi. Adesso i francesi hanno detto: anche voi inglesi però mettete il divieto, non se ne può più, è troppo rischioso, ci sono navi che devono fare zig zag tra i nuotatori, ci sono troppi pericoli, è anche troppo costoso, perché poi queste persone vanno aiutate, la deviazione delle rotte porta a dei ritardi, insomma c'è una sorta di lotta da costa a costa. Per capirci qualcosa di più abbiamo contattato la guardia costiera inglese e sono stati bravissimi, perché si sono attivati e hanno scoperto che al loro interno c'era un italiano che sta facendo un periodo di prova per essere assunto nella Guardia Costiera Italiana. Si chiama Matteo Fasci, è un ingegnere navale di Genova, lavora per la Guardia Costiera da settembre ed è qua con noi. Ciao Matteo. Ciao Federico, buongiorno a tutti. Buongiorno. Sei l'unico italiano che fa parte della Guardia Costiera inglese? Sì, al momento pare essere così. Complimenti. Grazie. Tra l'altro, insomma, già la storia è curiosa. Che ci fai lì? Come mai hai scelto la Guardia Costiera inglese? Ma guarda, ho scelto la Guardia Costiera inglese più che altro per fortuna, perché io appunto mi sono laureato non tanto tempo fa appunto in ingegneria navale, come hai detto correttamente, e cercavo appunto lavoro sia in Italia sia comunque anche ero disposto appunto anche all'estero, essendo appunto ancora un ragazzo giovane, quindi penso che una formazione, un periodo di comunque di vita all'estero sia assolutamente importante per una propria esperienza personale, certo. Poi anche sicuramente appunto anche a livello di carriera professionale, perché appunto l'MCA, appunto la Maritime and Coast Guard Agency inglese, sicuramente appunto, siamo un'agenzia esecutiva del governo inglese ed è comunque riconosciuta appunto a livello mondiale per la sua importanza, per il lavoro che svolge appunto, che è molto appunto apprezzato a livello appunto mondiale, quindi ho avuto questa fortuna di trovare questo lavoro appunto. Quindi non siete un ramo delle forze armate? No, la Guardia Costiera inglese è proprio un'agenzia esecutiva del governo inglese, siamo appunto un servizio civile, leggermente diversa rispetto magari come in Italia, che la Guardia Costiera è un ramo delle forze armate, invece qui in Inghilterra è un ramo proprio è un servizio civile. Ho capito, e tra l'altro molto efficiente, appunto li abbiamo contattati, hanno trovato te e ti hanno anche detto studia al caso, perché tu di fatto non ne sapevi nulla fino a poche ore fa. Onestamente c'è appunto questa notizia comunque apparsa anche sui giornali di appunto, in Inghilterra, perché appunto l'attraversamento a nuoto della Manica comunque è una tradizione inglese oramai effettivamente secolare, perché la prima traversata è stata fatta alla fine del 1800, e quindi comunque un problema abbastanza sentito questo di cui appunto parliamo oggi, ma appunto quando mi hanno chiesto di rilasciare un'intervista per conto di una radio italiana, ovviamente ho dovuto un attimino approfondire capire esattamente cos'è che avessero proibito i francesi e quale sia comunque il punto di vista dell'MCA, appunto della Guardia Costiera inglese, perché effettivamente io sono qui solo da 2 mesi, non sapevo assolutamente prima di qualche giorno fa quale fosse il loro punto di vista. E qual è questo punto di vista? Io posso arrivare, posso tuffarmi e posso tentare di attraversare lo stretto, o devo segnalare la cosa a qualcuno e ogni attraversamento allora, è organizzato? Ovviamente non c'è nessuna restrizione per uno che vuole farsi una nuotata, non solo all'interno della Manica, diciamo. Però essendo appunto, come dicevo, una cosa così molto sentita, l'attraversamento della Manica a nuoto da parte dalla popolazione inglese, sono nate proprio delle federazioni che certifichino che tu abbia attraversato la Manica Nuoto. Quindi queste federazioni svolgono un'attività non solo ovviamente di certificazione, ma quindi anche di assistenza appunto ai nuotatori che hanno intenzione di attraversare la Manica. Quindi quello che succede quando una persona appunto vuole effettivamente tentare questa impresa, deve prima contattare queste federazioni, iscriversi, perché ovviamente ha un certo costo, ovviamente, quindi anche l'assistenza proprio dell'imbarcazione che assiste appunto i vari nuotatori durante la traversata. E queste federazioni a loro volta, appunto essendo delle organizzazioni riconosciute dalla Guardia Costiera inglese, devono comunicare a noi quando vengono effettuate queste traversate a nuoto, in modo che noi come poi Guardia Costiera inglese emettiamo degli avvisi ai naviganti, siamo appunto in contatto e sorvegliamo ovviamente la navigazione in quel tratto di mare, che è uno dei tratti di mare più trafficati al mondo, e quindi ci preoccupiamo ovviamente che questa attività comunque avvenga in sicurezza. In tutta sicurezza. No? Non è che le persone così al mattino si svegliano e si decidano di fare una traversata a nuoto a loro proprio rischio e pericolo, ma ovviamente mettendo comunque in pericolo tantissime navi e quindi problemi a monte molto superiori, molto più grandi. Salvatore, tu quando hai attraversato la Manica hai trovato molto traffico? Per la verità no. Mi ricordo che incrociai il 31 luglio scorso dello scorso anno incrociamo solo un bastimento, ma anche da lontano, che non ci diede neanche fastidio, assolutamente no. Do il benvenuto a Salvatore Cimmino, ha fatto il giro d'Europa a nuoto, quindi per lui l'attraversamento della Manica così è stata una bazzecola. Credo tu abbia attualmente ancora, tu detenga il record italiano, vero? Io ho fatto in 9 ore e 50 il record italiano di tutti i tempi, solo che non verrà omologato perché l'ho fatto con un costume lungo. No, e quindi da regolamento non vale? E da regolamento per omologare il risultato bisogna stare solo con uno slip e una cuffia. Vabbè, insomma, sono poi dei precisini. Salvatore, il nostro pubblico non ti conosce, tu sei insomma un recordman, tra l'altro hai una gamba amputata, quindi questo record l'hai fatto utilizzando una protesi? No. Assolutamente no, non si può nuotare con una protesi, assolutamente no. Quindi hai nuotato senza protesi, però avevi il costume lungo, hai fatto il record e non te lo vogliono omologare, e vabbè insomma. No, ma io questo già, già lo sapevo, okay. Siccome l'acqua praticamente oscillava tra i 10 e i 15 gradi e siccome non mi ero mai allenato a quelle temperature, per cui siccome il mio scopo non era di battere un record, ma di accendere un riflettore sulla disabilità motoria in Italia, che non è affatto sviluppata. Mm-hmm. E quindi praticamente il fine è quello di far sì che il nostro sistema sanitario nazionale contempli finalmente le nuove tecnologie applicate appunto ai dispositivi protesici per regalare oltre a una qualità di vita migliore, ma per un'inclusione definitiva. L'altra Europa. Questa è l'altra Europa e vi ricordo come sempre che sul nostro profilo Facebook, facebook.com/l'altra Europa, troverete tutti i link, tutti i nomi, tutte le indicazioni legate a questa puntata dell'altra Europa. Stiamo parlando dell'attraversamento a nuoto dello stretto della Manica, lo facciamo con Matteo Fasce che lavora nella Guardia Costiera inglese e con Salvatore Cimmino che questa impresa l'ha portata a termine in 9 ore e 50 minuti. Salvatore, tu da protagonista la sapevi di questa diatriba tra costa francese e costa inglese, lo sapevi insomma che i francesi non tollerano, comunque si tollerano ma a fatica questi tentativi di attraversamento? Per la verità questa notizia l'ho letta praticamente giusto ieri, l'altro ieri, proprio sul Corriere online, per cui non ne sapevo niente. E questo, devo dire la verità, mi dispiace tantissimo, anche perché dovete sapere che l'attraversamento della Manica in fondo non è una sfida con se stessi, ma diciamo è una sorta di fede, di religione, non so se vendo l'idea, per sì. cui dovrebbero ripristinarla e il governo francese dovrebbe fare di tutto per mettere fine a questa diatriba, anche perché in quell'occasione incontrai persone con un'età avanzata, ma che stavano lì praticamente in una situazione proprio di pace, che non vedevano l'ora di partire, e parlo di persone sessantenni, sia maschi che femmine, e quindi era una festa. Una festa, insomma, a cui tu... mi dispiace tantissimo praticamente di questa cosa. Una festa a cui tu hai partecipato, hai fatto il Giro d'Europa, tantissimi altri attraversamenti, adesso ti stai accingendo a fare il Giro del Mondo a nuoto, quindi insomma il tempo in acqua non ti manca e non ti mancherà. E Matteo, hai fatto un po' di conti, quante sono le persone che ogni anno cercano di attraversare lo stretto? Ma decisamente parecchie, ogni anno appunto aumentano sempre di più, adesso ho dei numeri sotto mano, ad esempio nel 2004 sono state 675 persone, però le traversate che hanno avuto successo, che sono state completate, sono state praticamente 1.948, nel 2005 sono state addirittura 811 le persone, le traversate appunto che hanno avuto successo sono state praticamente 1.200, quindi effettivamente sì, ogni anno questa... diciamo manifestazione, appunto, come detto giustamente Salvatore, è assolutamente una cosa molto sentita qui in Inghilterra. Se mi permettete un paragone, come sono stato in Slovenia, ho avuto la fortuna di scoprire questo bellissimo paese, e per loro proprio si dice che una volta nella vita devono andare sulla montagna più alta della Slovenia, al Triglav, e penso che più o meno appunto la traversata della Manica a nuoto per gli inglesi sia un qualcosa di paragonabile, appunto, da quanto è sentita questa cosa. Diceva giustamente Salvatore, non è proprio una sfida personale, non lo fanno tanto per il record quanto proprio perché oramai è proprio una tradizione secolare. Sì, sì, la lasciamo a loro comunque, cioè, nel senso che se almeno una volta nella vita devi fare l'attraversamento della Manica, insomma, è un impegno impegnativo, scusatemi il gioco di parole, ma rende l'idea. Grazie davvero Matteo, complimenti per la tua professione, in bocca al lupo, ti aumenteranno di grado dopo questa intervista? non credo. Vabbè, tu metti la curriculum, fa sempre. Certo. Grazie. Ciao Salvatore, in bocca al lupo anche a te per le tue prossime imprese, dimmi. Crepi, e grazie di cuore. Ciao, buona nuotata. Ciao, ciao. A presto. Ciao, buon sabato. Ciao. Europost-it. Insolite guide. Visitare una città scegliendo di seguire itinerari originali che mescolano luoghi famosi a scorci meno noti. Questi sono gli itinerari d'autore, le guide pubblicate dalla Lonely Planet, una delle più amate case editrici di guide turistiche. L'aspetto più particolare di queste pubblicazioni è che sono piene di illustrazioni realizzate dalla matita di un affermato disegnatore. Le guide già uscite sono quelle di Bruxelles, Firenze, New York, Roma e Marrakech. E continuiamo a raccontarvi un'altra Europa, in questo caso un'altra Europa online. Iniziamo oggi infatti una collaborazione, sarà un appuntamento al mese con Christian Hesser, amico dell'altra Europa perché è già stato un nostro corrispondente da Amsterdam. Lui ha fondato una società che si chiama Mr. Harder, e mrharder.com è il sito, un'agenzia di trend watching e strategia per i media online, e abbiamo chiesto a lui, visto che ha un po' il polso della situazione, di quelle che sono le nuove tendenze europee legate all'online, di così farci una sorta di rubrica mensile, andando a mettere il focus ogni volta su un argomento diverso. Ciao Christian, benvenuto all'Altra Europa. Ciao Federico, come stai? Molto bene, grazie. Tu? Ah, benissimo, guarda. Dopo tutta questa acqua che ho sentito in radio, ti dico che qui in Olanda piove. Oh, finalmente un po' di par condicio. Tra l'altro oggi per Amsterdam è una giornata particolare. Se non erro, questa sera è la notte dei musei aperti, giusto? Sì, fantastica, è un'iniziativa che abbiamo ogni anno, tutti i musei sono aperti fino alle 5 del mattino e in ogni museo ci sono attività di tutti i tipi, da musica a teatro a performance, di tutto, ed è una gran bella festa perché tutta la notte c'è gente che gira da museo a museo e si diverte, fantastico. È fantastico, insomma, un'iniziativa che tra l'altro anche in Italia hanno portato avanti, cioè ogni anno, però se ho capito bene ad Amsterdam il museo viene proprio anche trasformato, diventa sì occasione di visita ma anche di vivere in modi diversi quei luoghi. Torniamo a noi, Christian, allora hai un po' osservato quello che sta succedendo nel mondo online a livello europeo e cosa hai catturato per noi questa settimana? Quello che vi... iniziamo con una piccola introduzione nel dire che l'online, il modo in cui la gente online condivide, cambia, si scambia idee, parla, ha fatto in modo che c'è una trasparenza, e questa trasparenza sta cambiando il mondo. Trasparenza che fa in modo che tutti possano essere all'altezza di quello che sta succedendo a tutti i livelli. E io adesso ho guardato un attimo, parlando di acqua, sì. ho guardato alcuni casi in cui la gente vuole donare, che si vede che anche tanta gente vuole aiutare altra gente, anche grazie a questi social network. C'è un'iniziativa qui in Olanda che si chiama Join the Pipe. Join the Pipe è stato fondato da un italiano, per caso, Lorenzo De Rita si chiama. Sì. È un ragazzo che già da un po' di tempo conosco e che qui in Olanda lavora da anni. È una catena di solidarietà questa Join the Pipe. Cosa dicono loro? Noi abbiamo acqua in abbondanza qui in alcune parti in Europa e c'è acqua non in abbondanza in altre parti del mondo. Come facciamo ad aiutarli? Hanno pensato di fare questa conduttura, questo tubo d'acqua più grande del mondo, che è un simbolo, e ognuno può comprare una piccola parte di questo tubo, che questo tubo è stato ha anche vinto un Dutch Design Award quest'anno. È un tubo trasparente che allo stesso tempo è anche un bicchiere o un modo per poter trasportare l'acqua, certo. E questo tubo puoi comprarlo tu da solo, ma anche le ditte possono comprare parecchi pezzi, e tutte queste donazioni vengono usate, 100% delle donazioni vengono usate per dei progetti di acqua in paesi in Africa. Quindi insomma un'operazione, una sorta di catena di aiuto, esatto. Però trasparente, tu dici insomma questi soldi sai bene dove vanno a finire, che è un po' l'online permette, no, di cancellare tantissimi passaggi e sovrastrutture, ecco. Ecco. Che a volte che causano la dispersione di tantissimi fondi. Ridiamo il sito per favore? Esatto, è lì come dici esattamente quello che dice la trasparenza, eh? È bello, acqua e trasparenza. Il sito è jointhepipe.org, è un sito che parlavo con Lorenzo, adesso viene anche migliorato in breve tempo, perché ci sono alcune cose che devono ancora essere migliorate, ma in ogni caso sul sito c'è la possibilità di vedere chi partecipa, in che modo partecipa. Benissimo. E cosa succede con tutti questi soldi. Cacciatore di tendenze, una seconda cosa che hai trovato? Una seconda cosa che ho trovato, sempre a riguardo di donare, c'è un sito che si chiama pithworld.com. È esattamente la stessa cosa, però a livello più grande. Loro cosa dicono? Se volete donare, facciamo in modo che tutti possiamo donare su progetti diversi, mettiamolo trasparente sul sito, facciamo sì che anche aziende possano collaborare a progetti diversi, sono tutti micro progetti. E il bello è che anche lì hanno messo esattamente sul sito i costi, tutti i costi che vengono fatti per i progetti, dove questi costi vengono allocati, in modo che tutti sanno esattamente quanto paghi, e puoi anche vedere il processo del progetto, nel senso se è già stato attualizzato o a che punto sono. Perfetto. Terza dritta che ci puoi dare? Sì, anche lì ancora parlando di acqua, l'internet è un modo per visualizzare anche i problemi. Tante cose vengono visualizzate in modo che non c'è più bisogno di leggere, ma solo vedendo vedi esattamente cos'è il problema, cos'è la situazione. Abbiamo anche un water footprint, che non è nient'altro di quantificare quanta acqua viene usata per produrre altre merci. Un paio di anni fa un designer tedesco, Tim Kerkeritz, se lo dico bene, sì. Ha fatto un poster in cui vedi quanta acqua costa per produrre un chilo di carne, per esempio. Certo. Questo poster è bello, ma è statico. Adesso hanno fatto un'applicazione sull'iPhone in modo che, dove tu sia, puoi guardare il tipo di cibo che stai comprando e vedere quanta acqua viene usata per produrre questo cibo. È solo una questione di awareness per far sì che la gente capisca quanto viene prodotto e in che modo. È molto bello questa applicazione, e anche come design è fantastico. Fantastico, insomma, così sai, certo, quanta acqua di fatto stai consumando con l'oggetto che hai in mano, quindi non è solo legata al cibo, ma appunto io adesso ho un pennarello in mano e con questa applicazione so per fabbricare questo pennarello quanta acqua è stata utilizzata. Grazie davvero Christian, ti do un compitino però, nel senso che ti chiedo poi di andare sulle nostre pagine in Facebook per mettere tutti i siti e tutti i link relativi a queste cose che tu hai scovato per noi, va bene? Sicuramente. Ci ritroviamo qui all'Altra Europa tra un mesetto con altre tendenze da tre cercate in Europa, con l'altra Europa online. Ciao e buon sabato. Ok, ciao. Ciao, ciao, ciao. Adesso un euro post-it e ci fermiamo per la pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. Euro post-it. Studiare musica in Europa. Study Music in Europe è un sito per tutti coloro che sono interessati a studiare musica presso un conservatorio, un'accademia musicale o un'università di musica in Europa. Da questo portale, infatti, è possibile accedere ai siti degli istituti superiori di educazione musicale, avere informazioni sui sistemi nazionali di istruzione e su temi pratici come il riconoscimento internazionale degli studi o le procedure per il visto, i programmi e i progetti di mobilità. Per tutti i musicisti e gli aspiranti tali, studymusicineurope.org. L'altra Europa. Questa è l'altra Europa. Quello che invece state ascoltando è un tributo sonoro alla natura, ad opera di un jazzista norvegese, si chiama Terry Usengsette, ed è uno dei tanti ospiti del Festival Internazionale del Teatro per l'Infanzia, Scene d'Infanzia, che si apre domani a Mantova. Il meglio della produzione europea che si ritrova qui in Italia. È teatro per ragazzi, quindi è teatro per i più piccoli, ma con tante chicche come quella che stiamo ascoltando, che sanno catturare anche l'attenzione degli adulti. Vi lascio subito il sito, che è www.scenedinfanzia.org, per conoscere l'intero programma. Una settimana intera, sono più di 200 eventi tra spettacoli, mostre, percorsi didattici. Il taglio è proprio quello europeo, con compagnie che arrivano dalla Norvegia, dal Belgio, dalla Spagna, dalla Francia. E andiamo proprio in Francia per vedere via radio uno di questi spettacoli. Diamo il benvenuto all'attrice che sarà nei prossimi giorni a Mantova, Colline Morel. Ciao Colline. Buongiorno. Buongiorno a te, buon sabato, come stai? Sto bene, a posto. Allora, Colline, tu sei un'attrice specializzata nel teatro per ragazzi o è solo un'eccezione quella che fai a Mantova con questo spettacolo? No, quello con quella compagnia facciamo teatro per tutti, e quello comincia anche per i bimbi, per quelli giovani. E a noi piace anche di prendere e di far venire i più grandi, che ne hanno bisogno tanto di vedere spettacoli. Tra l'altro, la cosa bella anche del teatro per ragazzi, ed è una cosa che si può vivere a Mantova, che di fatto tu puoi assistere a spettacoli anche in una lingua che non conosci, ma riesci a percepire il messaggio, riesci comunque ad emozionarti, perché il linguaggio è solo una delle lingue del teatro, quindi insomma anche se non capisci la parola, comunque vedi cose, percepisci sensazioni, no? È comunque una dimensione che riesce a avvolgerti completamente. E voi, Colin, cosa proponete a Mantova? A Mantova proponiamo un spettacolo che si chiama Acchiappalo, che Acchiappalo è una storia di qualcuno che ci corre indietro a un altro. Sì. E si passa in un camion, abbiamo un camion teatro. Ok, un camion teatro? Uh-huh. Un camion teatro, sì, nel quale facciamo entrare la gente. Il pubblico deve entrare e diventa macchinista, diventa diventa tecnico dello spettacolo, che noi comunque le facciamo entrare all'indietro dello spettacolo. Certo. E ognuno deve avere un meccanismo. Infatti ho letto la presentazione di questo spettacolo, che non si tiene a teatro ma su un pullman, ed è uno spettacolo a impatto zero, perché non viene mosso niente energeticamente, tutto il movimento è dato dal pubblico, che diventa parte attiva della scenografia. Sì, proprio. E in tutto ciò tu cosa fai? Scusa? Qual è il tuo compito? Io sono nel camion e faccio nel quel camion teatro. Sì. E faccio entrare la gente poco a poco, uno ad uno, e ci spiego prima come funziona, e poi vado all'indietro, dietro l'altro lato dello spettacolo, e qua diventa un segreto che si deve venire. Accidenti, non ce lo puoi svelare. Come si chiama la compagnia? La compagnia si chiama Les Chaussettes en pâte à modeler. Che significa? Che significa le come si dice in italiano? Le calzine di plastilina? Ah, sì, una no. Cosa del genere, sì. Che non può essere. No, sì, no, beh, i calzini di plastilina, cioè di sì, può starci. Che non puoi entrare il piede dentro, ma magari un po', puoi provarci. È vero, comunque puoi modellare, diciamo, il calzino sul tuo piede, ecco, questo, esatto. Questo sì. È lo spettacolo nella tua testa. Colline, tu perché parli italiano? Che è una domanda che facciamo. Io parlo italiano perché ho fatto lo studio a Palermo, sono andata a studiare all'Accademia e prima di fare l'attrice facevo l'arte plastica, l'arte... all'Accademia, perciò ho fatto lo studio di là. Ho capito. E ho sperato. Adesso invece sei tornata a teatro e sarai appunto a Mantova con lo spettacolo Acchiappalo. Grazie davvero. Acchiappa. Grazie davvero, in bocca al lupo per la tua attività. Ciao. Ciao, ciao. Grazie. Ciao. Ricordiamo il sito e per chi appunto fosse interessato a questo appuntamento europeo con il meglio del teatro per ragazzi a Mantova, www.senidinfanzia.org. Europost-it. Scoprire la cultura rumena attraverso il cinema. Questo è l'obiettivo della manifestazione Nuovo Cinema Rumeno, incontri con artisti straordinari, che si terrà a Milano, presso lo spazio Oberdan, domani dalle 12 alle 20. Un evento con mostre e proiezioni di documentari per scoprire personaggi e storie del popolo rumeno, organizzato dal Centro Produzioni Teatrali e Documentari Video di Milano, con il sostegno dell'Istituto Culturale Rumeno di Bucarest. Per informazioni, centroproduzioniteatrali.it. www.euronet.eu invece è il sito di riferimento di Euronet, il network radiofonico europeo a cui partecipiamo. Troverete il link anche nelle nostre pagine in Facebook. Ogni settimana viene scelto un argomento e questo argomento viene trattato in comune per avere punti di vista diversi dai vari angoli d'Europa. Il focus di questa settimana va sui fondi europei, questa importante risorsa. È un momento fondamentale perché si stanno un po' riprogrammando questi fondi europei, ci si sta ponendo anche una domanda: che fine hanno fatto questi fondi, come sono stati spesi? Ovviamente non si può dare una risposta complessiva, però volevamo dare un nostro taglio, come sempre facciamo, partendo dall'Abruzzo e partendo da una rubrica che su un sito che si chiama Abruzzo News è partita da pochissimo, una rubrica appunto che vuole spiegare questi fondi europei, come usufruirne e perché in questo momento, proprio in queste settimane, è una data importante. Diamo quindi il benvenuto a chi tiene questa rubrica. Lei è la dottoressa Simona Romiti, esperta in bilancio europeo, finanziamenti comunitari e gestione di qualità dei fondi strutturali, docente presso l'Università degli Studi Roma 3 con il master esperto in finanziamenti europei. Ciao Simona, benvenuta all'Altra Europa. Buona giornata a tutti coloro che ci ascoltano, ciao. Avrai un compito difficile, che è quello di rendere simpatici i fondi europei, che insomma, come sempre, noi siamo una radio dove insomma di economia se ne parla, si parla tanto in maniera anche approfondita, il taglio del nostro programma è più divulgativo e quindi insomma ti abbiamo convocata proprio con l'idea di spiegare intanto cosa sono questi fondi europei e perché sono così importanti. Ma di fatto i fondi europei sono molto simpatici perché aiutano e sostengono la crescita economica di un territorio, o meglio ancora la coesione economico-sociale di un territorio. È un argomento che in queste giornate è abbastanza, come dire, attuale, anche molto vivace, perché si stanno ridefinendo sia a livello europeo che a livello nazionale la nuova programmazione dei fondi strutturali, e cioè come questi fondi strutturali dovranno essere impiegati dalle amministrazioni nazionali e regionali per garantire gli obiettivi politico che l'Unione Europea si è data attraverso il documento strategico Europa 2020, obiettivo politico sintetizzabile in crescita intelligente, crescita sostenibile, crescita inclusiva. Intelligente perché l'Unione Europea punta allo sviluppo e alla creazione di un'economia e di una società basata sulla conoscenza e quindi a una rivitalizzazione della forza lavoro e ad una promozione degli investimenti e della spesa pubblica e privata nella ricerca e nello sviluppo, a un'economia sostenibile per garantire e comunque sostenere un uso efficiente delle risorse ambientali disponibili, una crescita inclusiva che garantisca ancor più una coesione sociale e territoriale. Mm-hmm. E certo, e tra l'altro 2020 come data, ma il 20 è anche un numero che ritorna, no? Perché c'è questa soglia del 20-20-20 che in materia di clima ed energia, esatto, quindi riduzione del 20% delle emissioni di gas serra, l'aumento dell'efficienza energetica del 20%, il raggiungimento della quota del 20% di fonti di energia alternativa, quindi sono richieste precise, ma non solo, perché ci sono altri obiettivi che l'Europa si è data e cerca di raggiungere proprio anche con questi fondi europei, come per esempio questo che mi sembra importantissimo, lo racconti anche tu nel tuo blog, il 75% delle persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni deve avere un lavoro, che quindi insomma un obiettivo fondamentale. L'incremento, ecco, del tasso di occupazione al 75% nel 2020, così come, ecco, l'incremento della spesa di ricerca e sviluppo al 3%, consideriamo che oggi in Italia gli investimenti in spesa, gli investimenti della spesa per la ricerca e lo sviluppo è ferma all'1,1%, e così come la riduzione degli abbandoni scolastici e la promozione di un sistema di formazione terziario, quindi delle università, che vada verso incontro a quella che è la domanda di mercato di una nuova forza di lavoro riqualificata, e quindi anche come dire, una risposta pure a quelle che sono state le previsioni dell'OCSE sia di crescita dell'economia, ma di riqualificazione e di ristrutturazione di tutta la forza lavoro per rispondere a una crisi economica che ha interessato tutto non solo il sistema Paese Italia, il sistema Europa, ma una crisi di livello internazionale. Simona, ma noi italiani siamo bravi ad ottenere questi fondi, se sappiamo come muoverci, facciamo le richieste giuste, al di là della gestione poi di questi soldi quando arrivano, però sono interessato alla fase precedente, nel senso, o ci sono margini di miglioramento? Sicuramente ci sono dei margini di miglioramento. Per rimanere sul tema, l'Italia ha approvato ieri in Consiglio dei Ministri il Piano Nazionale di Riforma, che di fatto recepisce queste direttive comunitarie e fornisce gli strumenti alle amministrazioni nazionali e regionali per l'attuazione dei programmi di sviluppo e quindi per il raggiungimento di tali obiettivi. In Italia si sta facendo un lavoro che è di tipo culturale e quindi di disseminazione dell'informazione per l'utilizzo di tali fondi. Ecco, pertanto, per farlo un esempio pratico, la Regione Abruzzo ha predisposto una legge regionale che promuove la partecipazione delle piccole e medie imprese a un programma tematico dell'Unione Europea, che è il 7° programma quadro. Quindi diciamo che l'Italia ha ancora, così come tutti i sistemi regionali, hanno molto da lavorare per quanto riguarda sia l'accaparramento delle risorse, sia una gestione di qualità di tali fondi sul territorio. Simona, un'ultima domanda. Tu ti occupi di Abruzzo, insomma, l'Abruzzo credo sia per la tragedia del terremoto, può essere un emblema non solo italiano ma anche a livello europeo in relazione ai fondi europei. La ricostruzione, la ripartenza può proprio passare da questi fondi, dall'utilizzo di questa risorsa? Ma l'Abruzzo ha già risposto in questo senso, ovvero ha utilizzato parte dei fondi strutturali sul periodo di programmazione 2007-2013 proprio per la costituzione di un asse che andasse verso il recupero e la rivitalizzazione economica e sociale di tutto il territorio colpito dal sisma e quindi dell'area cratere con la città capoluogo L'Aquila, come tutti ben sanno, e i comuni limitrofi. E ha destinato proprio delle risorse, queste risorse da fondi strutturali, per essere più precise il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, verso l'intervento sulla rivitalizzazione del tessuto economico attraverso la disposizione di fondi strutturali per l'attrazione di nuove imprese e per la riattivazione di quelle unità produttive che erano venute che erano cessate proprio a causa del sisma, così come ha predisposto parte di sfruttare i fondi del fondo FESR per una rivitalizzazione di tipo sociale, quindi il finanziamento di attività culturali e sportive e prima fra tutto per la ricostruzione di infrastrutture. Insomma, quindi un'occasione che è stata sfruttata. Grazie davvero Simona, ricordiamo la tua rubrica Europa 2020, una rubrica per vederci chiaro, l'indirizzo è www.abrustoweb.it. Ciao Simona, grazie, buon sabato. Grazie a voi, buona giornata. L'altra Europa. L'altra Europa, andiamo alla ricerca di notizie curiose dal nostro continente e a volte, insomma, ne troviamo alcune che ci divertono tanto. Questa volta ve la presentiamo utilizzando un servizio di un TG in lingua originale. Una pequeña localidad llamada Río Tuerto a través de una inmobiliaria catalana. El pueblo se alquila con opción a compra. Se trata de una superficie de 90.000 metros cuadrados y se encuentra recién rehabilitado. Puede ser una iniciativa que puede ayudar a revitalizar la zona y a poner en valor pues los recursos turísticos. Insomma, forse qualcosa avete captato. È un intero paese che è stato messo in vendita. Si chiama Río Tuerto e insomma pare sia un affare nel caso siate interessati all'argomento, perché è un paese dove insomma si potrebbe fare un albergo, un hotel diffuso, insomma sono tante le prospettive legate a questa vendita. Per capirci di più abbiamo convocato, anche se è caduta ma la stiamo ricontattando, Cruz Vergara, che è una giornalista della Radio Televisione di Castiglia, nata a Madrid e vive da 20 anni da quelle parti, insomma, e per noi ha seguito il caso. Tra l'altro è la stessa televisione dalla quale abbiamo estrapolato il servizio, poi vi metteremo anche il link sulle nostre pagine del profilo in Facebook. Comunque, se siete interessati potete già cliccare su Google Río Tuerto e capire se vi può piacere questo villaggio, al centro del quale cappeggia una bellissima fontana a forma di elefante. Ecco qua Cruz Vergara. Ciao Cruz. Pronto? Ciao, buongiorno. Buongiorno a te. Vuol dire che all'inizio, tu sai, in questa località si trovano resti delle prime anni, no? Sì. Donde vicino c'è Ambrona, donde si incontrò un elefante amazzonico, e questa è la finalità, no? Perché ci sono resti primitivi, arabi, romani, di tutte le culture che hanno coperto la terra. Ah, ok, la costa. Quindi ha un senso quell'elefante in mezzo al paese. Pensavo fosse così, un qualcosa di eccentrico, invece è legato ai resti lì del territorio. Ma tu l'hai mai visitato questo paese, questo Río Tuerto? Sì, Río Tuerto si trova a 25 chilometri da Soria, è un paesino piccolo e l'origine era di una famiglia soriana. Tu sai, una famiglia nobile. Sì. che aveva le sue terre dove lavorano le terre per i cereali, la campagna, e era di una sola famiglia, ma questa famiglia, quando il Herrero de Tejada, che era il proprietario, è morto, è venduta a un imprenditore soriano che aveva una idea di fare un centro turistico, perché la località è una località piccola, ma si trova circondante il fiume Duero e il fiume Río Tuerto, e così è piccola ma è bella, perché la chiesa è del secolo XII, tu sai? No, no. Ci sono un binari dove adesso si può prendere funghi, è come se ritorniamo al passato. Questo non è una cosa speciale, perché nel nostro provincia si trova in Castiglia e León, è la più piccola per abitanti, non per estensione. Ci sono tantissimi paesini quasi abbandonati, tu sai. Adesso io sono facendo un programma di TV. Sì. E ricorro tutto il paese e vedo tantissime popolazioni che sono così bellissime, ma sono abbandonati tutti. Ma ed è normale che questi paesi abbandonati vengano messi in vendita? No, non è normale. La cosa è che l'imprenditore, che lui non vuole che si sepa il suo nome, perciò lo ha referenziato a questa immobiliaria catalana, aveva comprato prima le terre, no? Okay. Le terre circondanti di questo popolo al proprietario, e alla fine ha comprato queste, che in realtà è un piccolo, perché sono solo 15 case, un fienile, E anche la chiesa, che è bellissima, ma non è una cosa normale, perché c'è un'altra, un altro caso, magari 10 anni fa, sì, sì, vicino a Tierras Altas, che si chiama questo paesino Val de la Villa, lo hanno comprato un gruppo di imprenditori, hanno fatto un villaggio specializzato per imparare l'inglese, che si chiama il popolo inglese, che si chiama Val de la Villa, che adesso lo dirige Bauman Language, che è più famoso qui nel nostro paese, no? Ho capito, ma è più o meno quanto è valutato il paese? Cioè, quanti soldi servono per portarsi a casa l'intero paese? C'è una valutazione, c'è una cifra indicativa? Non hanno detto nessun prezzo, perché ho parlato con l'imprenditore e le cose non sono facili. No, Perché la gente adesso vuole terre, non solo il paesino, tu sai, no? E lui aveva cominciato 10 anni fa a fare una ricostruzione, perché lui voleva fare un centro turistico. Ho capito. Ma le cose non vanno bene. Lui ha oltre idea, ha pensato di venderlo, e se non è possibile venderlo tutto insieme, è possibile affittarlo. Ho parlato con lui ieri, lui me lo ha raccontato, ma lui non mi ha detto nessun prezzo, no? Perché non dice il prezzo, se l'imprenditore o la persona che lo vuole comprare non negozia in serio. Ho capito. Non si può sapere bene. Cruz, prima di salutarci, ti sfrutto un attimo, visto che tu sei esperta anche di turismo, mi pare di capire, visto che fai questo programma itinerante. Ci sono un paio di mete che magari i turisti italiani, e non solo, non conoscono, ma sono assolutamente da vedere lì dalle tue parti? Bueno, io dico che la mia provincia non te la immagina, perché è bellissima. È una provincia dove si può vedere i resti più belli dei romanici. Adesso ti raccomando questa settimana specialmente la città del cielo, che si chiama Medina Celi. Perché? Te lo dico perché il sabato, sì, sarà la festa del toro di fuoco. È l'ultimo toro che con fuoco nella sua testa ricorre la piazza alla notte. È la notte fredda del 13, dove si celebra i santi patroni. Questo fuoco, che è controverso perché tantissima gente non è d'accordo con lui, ma con la celebrazione. Ma ti dico che la Medina Celi è una città bellissima, con l'unico arco romano che ha tre porte. Ci hai convinto, grazie davvero Cruz, ciao, buon sabato e buon lavoro, grazie davvero. Grazie a tutti, è il momento dei saluti, vi aspettiamo in Facebook, nelle nostre pagine facebook.com/l'altraeuropa, l'altraeuropa @radio24.it se volete farvi vivi. Un grazie ad Alba Chiara Rondelli, che con me ha scritto la puntata, a Margherita Ina in redazione, a Paolo Corleoni alla parte tecnica. Ancora ciao da Federico Taddia.